Siamo in collegamento con Daniela Gurrieri di Italia Solidale. Ci vuoi spiegare cosa Italia Solidale sta facendo concretamente in Sudan e perché? Sì, intanto il senso di questo incontro è la giornata mondiale dell'infanzia che sarà celebrata il 20 di novembre. Noi sono moltissimi anni che lavoriamo a favore dei bambini di tutto il mondo e siamo presenti in 81 missioni. E questo incontro noi lo facciamo puntando l'attenzione sulla sofferenza dell'infanzia nel mondo. 30.000 bambini muoiono ogni giorno, quasi nell'indifferenza assoluta dei mass media, e per questo vi ringraziamo per questo spazio che ci offrite, e siamo presenti in Sudan da 10 anni. E siamo presenti in tre località, da 10 anni siamo presenti nel Sud Sudan con due progetti di adozione a distanza, a Juba, nella parte controllata dal governo, e a Isoke, che è la parte dei ribelli, e da qualche mese siamo anche presenti con un progetto di adozione a distanza in Darfur. La grande sofferenza dei bambini del Sudan è veramente qualche cosa che noi non possiamo accettare, così come di tutti i bambini nel mondo. E il modo in cui noi interveniamo è attraverso la collaborazione con i missionari del posto, sono missionari nativi. Quindi in Sudan noi lavoriamo con suore missionarie e con missionari preti proprio del Sudan, che hanno una collaborazione con la gente del posto, con le famiglie del posto, e che piano piano animano tutta la comunità per occuparsi dei bambini più bisognosi. Quindi si parte proprio dai bambini che in assoluto hanno più bisogno. E nel caso del Sudan c'è veramente una situazione tragica, perché ci sono bambini schiavi. Nel 2004 è veramente assurdo pensare che ci siano ancora queste situazioni, ma in Sudan c'è questa realtà. Adesso quello che abbiamo visto noi stessi andando sul posto è che questa gente che sta in guerra da oltre 50 anni, con una breve pausa di qualche anno negli anni 80, e questa gente di pelle nera, queste tribù di pelle nera che abitano nella Nubia, anche nel Darfur e nel Sud Sudan, sono letteralmente oggetto di sterminio. Noi collaboriamo con progetti di adozione a distanza facendo proprio questo lavoro. Non è semplicemente un fatto finanziario di mandare i soldi, ma per noi è un fatto fondamentale di sostenere queste popolazioni a resistere. Io vorrei lanciare anche ovviamente un appello a tutti coloro che ci ascoltano. Noi abbiamo 300 missionari che ci chiedono di aiutarli in questo modo, e noi dobbiamo dargli una risposta. Unitevi a noi con l'adozione a distanza, anche telefonandoci, il numero è 06 6877 999, o collegandovi col sito di Italia Solidale www.italiasolidale.org.